5H. Ascolta e replica. Possiamo mangiare? E perché no? Mangiate pure. Possiamo ordinare? E perché no? Ordinate pure. Possiamo rispondere? E perché no? Rispondete pure. Possiamo attendere qui? E perché no? Attendete pure. Possiamo applaudire? E perché no? Applaudite pure. Possiamo uscire? E perché no? Uscite pure.